Guarda, è figlio di Masigno, è nato in provincia di Bari e quindi ha una particolarità che lui è nato sul suolo italiano, è di passaporto brasiliano, ma in questo momento lui ha scelto la nazionalità spagnola, quindi ha giocato ha fatto tutta la trafila e sta facendo la trafila e ha anche vinto qualche titolo con la nazionale spagnola. È peccato, eh? Ed è un peccato. È anche vero che lui in Italia c'è stato veramente poco, perché poi Masigno giocava nel Lecce e poi è passato alla Fiorentina e poi è andato via poi ha scelto di vivere in Spagna. Masigno, non dimentichiamocelo, è uno che ha vinto un mondiale nel 94 giocando da titolare anche la finale a Pasadena contro l'Italia. La finale contro l'Italia, certo. Non un brasiliano dai piedi vellutati, un brasiliano alla Dunga che un brasiliano alla Zico, sì. però un giocatore interessante, insomma, che il suo l'ha fatto, non ha demeritato nel campionato italiano. Ha questo figlio del quale ormai si dice che abbia già come caratteristiche migliorato il rendimento del papà, di Thiago Alcantara si parla già da un paio d'anni, perché lui ha fatto davvero tutta la trafila nella cantera del Barcellona e Guardiola lo conosce molto bene perché lo ha avuto nel Barcellona B, anche nel campionato che loro hanno vinto, ed è un giocatore che quest'anno ha visto per la prima volta il campo da titolare contro il Villarreal. La particolarità di questo ragazzo è che intanto non è altissimo e non è un colosso, però nel Barcellona mi sembra che non se ne preoccupino più di tanto, no? Se i centimetri o i chili non sono granché. Questa è la prima regola, mi pare, per tutti. E poi sembra uno che fa questa cosa da sempre, cioè non ha ancora 20 anni, è entrato nel meccanismo e ha dimostrato come in questo caso al Barcellona, ma è una situazione che non viene ripetuta quasi mai a livello mondiale, tu cambi gli strumentisti ma il prodotto rimane quello, cioè nessuno si è accorto, magari sì, ma beh, però chi è stato sostituito non è stato rimpiatto, ma veramente per niente.